si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Sono le 8:32 minuti, ci ritroviamo insieme. Buongiorno Carlo, vediamo se funziona tutto. Buongiorno Laura, funziona tutto direi assolutamente. Ti hai fatto avere quel secondo di brivido, visto anche Peter Bescapè che ha avuto un attimo di mancamento, come funzionava tutto e adesso l'abbiamo perso. Benissimo, allora ci siamo per questo sabato, no? Ancora insieme, resistiamo insieme a tutti gli italiani. Certo che sì, anzi auguriamo anche a tutti buona primavera, anche se è un momento difficile, difficilissimo, non dimentichiamo oggi 21 marzo. È giorno di primavera. 824 0024 ovviamente per contattarci, per telefonarci. Oggi si concorre per il quiz, chi indovina non indovina, non vince biglietti per il MUDEC, ma vince libri quanto mai graditi in questo periodo, no Carlo? Quindi insomma partecipate numerosi, certo, ecco. Che sì. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ho visto molte persone attive, c'è chi ringrazia Radio 24 per continuare a trasmettere, noi ovviamente ringraziamo voi per continuare ad ascoltarci. È così, no? Sono ringraziamenti vicendevoli. E tanti che hanno già scritto addirittura per commentare la rassegna stampa che abbiamo fatto ormai un'ora fa. Ma effettivamente i giornali sono molto ricchi in questo periodo. Secondo me vale la pena leggerli. Forse è un po' come dire che noi giornalisti scusate, non sono malata, avrei giusto bisogno di bere un goccio d'acqua. Allora, dicevo, come se noi giornalisti avessimo più tempo per pensare e quindi per scrivere articoli ragionati e non in fretta e furia, no? Chiudendoci a casa pensiamo di più. Carlo, tu che dici? Non saprei, forse perché non sono un giornalista. Però tu scrivi, Ovviamente. Sì, io scrivo e in realtà devo dire che penso che sia molto difficile in questo momento parlare di qualcosa che non sia il coronavirus, e questo diventa complicato, soprattutto se uno si occupa anche di altre cose. Cioè, finché si parla di coronavirus è molto chiaro, è molto preciso. Tutto il resto è molto difficile, un po' perché non sappiamo che cosa succederà dopo, ecco. E vedremo. Carlo, noi ti sentiamo a tratti, ti avviso, perché comunque abbiamo degli strappi sulla linea nel così, mentre magari cerchiamo di controllare tutto e tu stesso controlla tutte i tuoi collegamenti, le tue apparecchiature. Appunto, vi ricordo che per telefonarci c'è sempre l'824 0024. Carlo, riproviamo. Sono qui. Benissimo. Allora, senti, di solito il sabato tu ci prepari la tua riflessione della settimana, no? Quindi. Sì, guarda, ieri ho, appunto parlando di giornalisti, ieri ho gioito per questo titolo: Netflix ha abbassato la qualità dei suoi video. Che mai avrei pensato di giudicare una buona notizia da dare con gioia e gratitudine. Ovviamente non si parla di qualità dei contenuti, ma di qualità dell'immagine intesa come risoluzione, perché così si può risparmiare fino al 25% di banda che rimarrebbe a disposizione per altri usi. La rete è parecchio carica, perché fra smart working, internet, social, reclusione casalinga, giochini online, porno, la stiamo usando tutti molto di più. Siccome in questa situazione sarebbe veramente deleterio non poter più usufruire della rete internet per problemi di sovraccarico, il fatto che Netflix e così anche YouTube e altri abbiano deciso di diminuirne il consumo, anche esponendosi ad eventuali rimostranze legali dei loro abbonati, è sicuramente una buona notizia, perché immaginate cosa potrebbe significare questa quarantena nazionale senza internet, le consegne a casa, il conto online, Skype, l'informazione, i porno, appunto. Ovviamente è bene che ognuno di noi non ne abusi, ma siccome è difficile, o forse è impossibile, chiedere al singolo di centellinare l'uso di internet, è bene che si agisca a monte, correndo ai ripari per tempo, anche perché non sappiamo quanto durerà. Devo ammettere che io fino a qualche giorno fa mi ero immaginato un orizzonte nominabile in settimane, nemmeno troppe. È evidente che non sarà così. Ho accusato il colpo quando mi sono reso conto dell'errore di valutazione che so che abbiamo fatto in tanti. Ecco, credo sarebbe una buona notizia se ne prendessimo tutti coscienza al più presto, perché esserne preparati credo possa farci solo bene e aiutarci ad evitare di diventare cattivi. La situazione spinge inevitabilmente a innervosirsi, incattivirsi, voler denunciare chiunque possa sembrarci un nemico che non rispetta le regole. Ma se sappiamo fin da adesso che questa pentola a pressione, invece di 15 giorni, dovrà continuare a cuocere per mesi, saremo bravi a ricordarci anche a vicenda di abbassare sempre la fiamma. Caro, sai cosa mi fa subito venire in mente quello che ci hai appena detto? Quello che mi è capitato in questi giorni, come tutti noi, no? È capitato di andare a fare la spesa, per esempio, o di incontrare persone sul pianerottolo di casa. Beh, non dimentichiamoci, insomma, l'educazione, le buone maniere, sia pure a 2 metri di distanza. Possiamo dire mi scusi, buongiorno, buonasera. Contatti sono ovviamente impossibili in questo momento, ma l'educazione, quelle forme che ci contraddistinguono anche come italiani, questo di darsi sempre il buongiorno, di salutarsi, beh, quelle le possiamo continuare e le dobbiamo continuare a rispettare per un vivere civile insieme. L'altro lo percepiamo in questo momento come nemico, ma non è così che dovrebbe essere e non è così che continuerà, no? Non può continuare così la situazione. Vorrei dare il benvenuto al nostro primo ospite di questa giornata, un ospite che ci fa molto piacere salutare in questa trasmissione, che è Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket. Buongiorno. Buongiorno a voi. Noi abbiamo letto, Sacchetti. Buongiorno. Carlo, ogni tanto sento del vuoto, ho sempre paura di averti perso. Dicevo, abbiamo letto tra tanti che appunto sacrificano o donano del proprio per venire incontro alle esigenze del paese. C'è anche lei che ha detto: tagliarmi lo stipendio? Beh, sì, sono pronto per contribuire. Lei, tra l'altro, oltre a essere Città Azzurro, allena Cremona, quindi insomma la situazione in città è particolarmente pesante per quello che possiamo leggere. Beh, sicuramente adesso c'è stato questo aiuto di questo ospedale americano che è venuto e in un attimo hanno aumentato questi numeri letto, che è una cosa importante. Sì, sicuramente non è una bella situazione. Io sono chiuso in casa da non mi ricordo neanche più quanti giorni, però ho la fortuna di avere il giardino e il cane, perciò questa cosa qua mi aiuta sicuramente. So che non è difficile per chi vive in questi appartamenti, però dobbiamo avere una coscienza di Stato che finora non abbiamo avuto. Questo sarà l'importante capire di questo, perciò penso che sia importante avere questa unità di intenti, perché non dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché poi è il futuro che sarà quello più importante. Sì, lei ha detto appunto: io il giardino, il cane, anche c'è stata tutta questa polemica, no, su quelli che vanno a correre. Lei, che non so, cosa ne pensa di questo particolare aspetto dei divieti che abbiamo? Beh, sicuramente il problema è che devo andare a correre, siamo in tanti, non è una cosa giusta, perché ci sono delle regole. Adesso non so se uno può avere una dilazione nel correre alle 3 di notte, 4 di notte, che non c'è nessuno. È una battuta questa cosa qua. Lo so che è una cosa importante di questo, però io penso che la salute sia più importante della salute fisica, perché se io devo mettere a rischio qualcuno per andare a correre, allora non è una cosa che sia molto, molto, molto giusta sotto questo aspetto. Io non devo mettere a rischio gli altri, perché il problema di qua è che noi stiamo parlando sempre di tutto, è che probabilmente c'è qualcuno che è positivo ma non ha avuto i sintomi. Questa forse è la cosa peggiore, perché poi uno dice: io non credo ai problemi, perché no, non ce l'ho, non l'ho avuto, l'ho fatto, non l'ho fatto, però come si fa a scoprire poi questa cosa? Perciò dobbiamo stare in casa tutti. Sì, i giocatori, molti no, degli stranieri sono tornati a casa, leggevo. Certo. E invece gli italiani, diciamo, voi vi sentite, come vi tenete in contatto? Magari loro, vabbè, avranno magari appartamenti più ampi del monolocale, di altri, però insomma, vi tenete in allenamento a distanza? Beh, sicuramente il nostro preparatore Jacopo ha mandato tutti un programma di contenimento fisico, cioè voglio dire di lavori al corpo libero, ognuno un suo programma in base alle esigenze, giusto da tenere un po' il fisico, ma più che altro anche la mente sotto questo aspetto qui importante da vedere. Ma il problema è che anche gli atleti si sa che stanno facendo dei sacrifici. L'importante è che non dobbiamo far capire che non siamo diversi dagli altri, cioè voglio dire, anche noi dobbiamo sottostare a queste situazioni, perché non è una cosa facile, le abbiamo viste negli ultimi giorni, ci aspettano forse delle restrizioni maggiori, e perciò bisogna essere molto, molto stato in questa cosa qua, cosa che noi italiani ultimamente non l'abbiamo fatta. Non lo siamo in realtà mai stati, forse per bene, no? Forse solo nel dopoguerra, ma... Ma è perché il problema nostro è che noi abbiamo una storia che è un po' difficile, perché poi noi non è che abbiamo una storia lunga, eravamo Regno di Sardegna, c'era il Pontificio, i Borboni, il Ducato di Parma, e perciò eravamo tante piccole unità. Posso fare una polemica sotto questo aspetto qua? Sì, come no? Allora, io certo. Davanti a tutte queste cose qua che ho letto, ognuno dice, adesso girano anche bufole di situazioni che hanno inventato questo coronavirus, però se devo dire una cosa che mi ha dato fastidio è stata quella di Bolzano e della Val d'Aosta, che volevano mandare via i non residenti. E perciò quella cosa lì è proprio l'immagine che non siamo uno Stato, no? Perché il problema è questa cosa qua, cioè dire se non siete residenti dovete andare via, perché dobbiamo pensare prima ai nostri cittadini. Ha ragione. Il problema Coach, è ha sicuramente... Ha sicuramente ragione, credo che siano anche momenti in cui ogni tanto vengono dette delle cose esagerate e sbagliate. Mi porterei a casa intanto la bellezza di sentir parlare un coach, forse dovremmo far parlare più i coach di alcuni politici o alcuni giornalisti. Lei la prima cosa che ha detto è unità di intenti, ecco, perché siamo una squadra, e quindi chi meglio di lei ci può spiegare questo. La cosa che le volevo chiedere è se, visto che il tema del taglio degli stipendi è emerso anche nel mondo del calcio, mi chiedo se anche il calcio risponderà bene come il basket, o se ancora una volta dovremo farci insegnare le cose dal basket, come ha fatto lei, che ha detto io sono pronto a tagliarmi lo stipendio. E l'altra domanda brevissima, volevo sapere se anche i giocatori della sua squadra di basket erano tornati a casa come quelli della Juventus. Allora, una cosa per volta, io quella scelta lì del mio taglio dello stipendio l'ho fatto, è una scelta personale sotto questo aspetto. Io penso che ogni persona debba valutare personalmente questa cosa qua, e tutto ci sono persone che possono avere più o meno sensibilità o più o meno esigenze sotto questo aspetto. Poi è logico che ci saranno le associazioni di categoria che decideranno questo, però voglio dire, penso che sia una cosa normale un pensiero singolo che poi possa essere trasmesso e possa essere accettato o non accettato. Questa cosa qua è una cosa che io avevo letto, che poi non so, dei giocatori in Germania l'avevano fatto ancora prima, cioè voglio dire, non è una cosa innaturale questa cosa qua. Per me è stata una cosa personale, io l'ho fatta pensando a me. Poi se qualcuno lo vuole fare o ci saranno le associazioni che diranno cosa è meglio di fare, penso che ci possa essere qualcosa sotto questo aspetto. Coach, scusi, in conclusione, ma il torneo preolimpico e olimpiadi, per ora mettiamo, diciamo, non pensiamo a questo? Ma io, allora, finirei l'altra domanda. Cosa sì. diceva quella dei giocatori che sono andati, che mi chiedeva, i giocatori sono andati via, e negli Stati Uniti noi abbiamo anche un giocatore croato che è tornato a casa perché sua moglie, cioè la sua compagna è incinta. Il problema è, prima del nostro campionato non si sa che cosa succede, della faccenda delle Olimpiadi i tempi sono veramente molto stretti. Io penso che ci sia già un'idea su che cosa fare, solo che non si ha il coraggio di dirla, e la mia idea è questa. Per me c'è un'idea e si sta pensando di portare avanti più possibile questa scelta, sperando che questo famoso picco possa scendere. Mi sembra che il picco sia molto lontano molto, dall'essere molto, raggiunto per ora. Ecco, molto lontano, perché adesso ormai prima di andare a dormire andiamo a leggere quanti morti sono. Un giorno ci sono stati dei morti in meno e abbiamo detto, vedi che le cose migliorano, da lì sono raddoppiati e tutto. Perciò voglio dire, stiamo parlando di, non dico di futilità, perché lo sport è una cosa importante, ma qui c'è di mezzo la salute delle persone, che è una cosa che deve essere primaria sotto questo aspetto qua. Poi le Olimpiadi arriveranno dopo, tutti vorrebbero giocare a tennis, hanno bloccato i tornei estivi, tutto. Però voglio dire, il problema è che noi stiamo parlando adesso e siamo in una condizione così, ma quando altri stati si troveranno in una condizione come nostra, vedo che la Spagna sta soffrendo molto e gli Stati Uniti inizieranno, gli Stati Uniti sono più di 300 milioni di persone in stati, quando inizierà la pandemia ad avere i numeri grandi da quelle parti lì, vorrei vedere che cosa succede. Perciò pensiamo prima a eliminare questo e poi lo sport, i giochi siano la cosa più importante. La ringraziamo, coach. Niente, a voi. Grazie, buona giornata e buon proseguimento. Abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ce ne ha parlato poco fa anche il coach Sacchetti, abbiamo parlato anche di fake news e su questo tema continuiamo con un nostro ospite, diciamo, periodico che ci fa molto piacere storico. Ritrovare, storico con noi, Gianluca Dotti. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a te Laura, buongiorno Cado e agli ascoltatori. Gianluca, giornalista di Wired Italia. Buongiorno. Segue in questo periodo veramente con particolare passione quello che sta accadendo nel nostro paese, sia da un punto di vista epidemiologico, immagino Gianluca anche da un punto di vista della correttezza dell'informazione, delle fake news, ne girano purtroppo davvero tantissime, no? Abbiamo letto le notizie più strampalate, che prendere la vitamina C ci faceva bene, ma questo tanto passi, ma quei messaggi audio, le catene WhatsApp che girano, è veramente un periodo nel quale bisogna stare attenti. Sì, la questione fake news e bufale sul coronavirus è partita in realtà ben prima dei primi casi registrati qui in Italia. Di fatto se ne parla già dall'inizio dell'anno con varie teorie del complotto e anche teorie cosiddette della prevenzione. Infatti forse alcune delle storie false più curiose, a tratti quasi che fanno sorridere, riguardano il modo in cui le persone possono per esempio accorgersi di avere il coronavirus. Cioè, un test fantomatico che gira su WhatsApp, sui social, che sostiene che per verificare se si ha o no l'infezione al mattino bisognerebbe trattenere il respiro 10 secondi e poi vedere se arriva un colpo di tosse oppure no, e questo farebbe il discrimine. Oppure ancora ce ne sono altre che dicono che per mantenere pulito il cavo orale bisogna bere continuamente, addirittura ogni 5 minuti, un sorso d'acqua per lavare la gola, oppure fare gargarismi con un disinfettante come addirittura la mucchina. Comportamenti che in alcuni casi sono inutili, in altri Gianluca, addirittura... Sì. Scusami, ti voglio chiedere una cosa, perché è chiarissimo che ci sono notizie assurde, pazzesche, ma mentre su tante altre cose mi è un po' più chiaro, anche perché uno vuole fare uno scherzo, un gioco, oppure vuole finire sul giornale, francamente io voglio chiederti, secondo te come mai su una questione così gigantesca come il coronavirus ci sono questo tipo di fake news? Forse dovremmo anche iniziare un po' a classificarle, nel senso che un conto sono i politici che lo fanno per cercare di portare la ragione dalla loro parte, ma perché uno si deve fingere di essere un epidemiologo del sacco e registrare un audio di 8 minuti per terrorizzare una nazione? Io proprio non riesco a capire il motivo. Beh, in una situazione di emergenza come questa effettivamente il buon senso e la ragione suggerirebbe a tutti di comunicare con molta attenzione e senso di responsabilità, effettivamente. Tuttavia su moltissimi fenomeni di cronaca, di attualità, ormai da anni si sa che le fake news circolano per motivi anche molto diversi tra di loro. Ce ne sono alcune, come dicevi, magari per finalità politiche, per orientare l'elettorato, altre sono fatte per ragioni economiche, cioè banalmente attirare click su una pagina web oppure convincere le persone a cliccare su un certo link che arriva su WhatsApp e che porta a chissà quale sito. Altre volte ancora sono fatte da persone che non hanno in realtà nessun vantaggio diretto, ma quasi si divertono o passano il tempo nel mandare in giro messaggi inutili, il che è assolutamente deplorevole, ma di fatto l'unica cosa che possiamo fare per difenderci è prestare ancora più attenzione a quali sono i contenuti effettivamente di cui possiamo fidarci e quelli invece da scartare a priori. Diciamo che a naso già queste cose che ti arrivano con scritto inoltre sopra, no, su WhatsApp, beh, insomma, prenderle almeno con le pinze prima di farle girare tra i nostri contatti, no? Certo, se c'è una buona notizia di questo periodo di crisi è che almeno sui grandi media ci sono sempre più scienziati, sempre più esperti, sempre più medici, e quindi almeno dalle testate giornalistiche principali, che siano radio, TV, web o cartacee, arrivano voci autorevoli. Viceversa, affidarsi a quello che il cugino manda perché a sua volta ha ricevuto da un'altra persona che magari nemmeno conosce non è una buona idea, anche se il modo in cui queste catene audio su WhatsApp si propagano è proprio basato sul fatto che apparentemente c'è qualcuno di autorevole che le ha fatte. Di solito infatti all'inizio di questi audio c'è una persona che si qualifica come medico o addirittura da nome e cognome di un vero medico. Tuttavia, non voglio dire il 100% delle volte, ma più del 99% si tratta di falsità. Sì, tra l'altro ci sono, mi ricordo una vicenda che non era legata al coronavirus, ma comunque a qualche cura miracolosa che veniva descritta e imputata a un certo medico, il quale, poverino, aveva avuto i guai suoi nello spiegare che lui non c'entrava niente, che il suo nome era stato utilizzato questa, no, in questa registrazione. Quindi veramente io consiglio a tutti, anche i miei conoscenti, in questi giorni, come dicevi tu, guardate le fonti ufficiali, guardate il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, guardate il decreto del Consiglio dei Ministri, non prendete le cose così random in giro. Grazie ancora Gianluca Dotti per essere stato con noi anche questa volta, giornalista di Wired Italia, lo potete seguire su tutti i mezzi di informazione, appunto, anche su Facebook come faccio io. Abbiamo adesso la pausa, Carlo, per il GR24, ci ritroviamo subito dopo, no? Certo che sì. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. siamo di nuovo insieme qui a Si può fare. Carlo, buongiorno anche a te. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ti abbiamo trasferito al telefono così non abbiamo problemi di ritardi e magari ti sentiamo meno chiaro ma presente, diciamo così, sul pezzo. Io non so, tanti si stanno dedicando alle pulizie di casa, no? Tra l'altro siamo in primavera, a questo punto è quale momento migliore per le pulizie? Non so, a casa vostra come va? A casa nostra direi abbastanza bene, insomma ci sono dei momenti di esagerazione dove si pulisce lo stesso angoletto 15 volte e ci sono momenti invece di grande lassismo del tipo vabbè ma lo posso fare domani, tanto penso che sarò a casa. Precisamente, perché il rischio è quello di rinviare al giorno dopo. Invece io sono sicura che Flavia Alfano ci suggerirebbe di non rinviare a domani. Chi è Flavia Alfano? È cleaning influencer con Titti da Toma, ovviamente, del canale Soluzioni di Casa. Buongiorno. Ciao Laura. Ciao Carlo. Flavia. Buongiorno. Buongiorno. Non rinviamo a domani, vero? Abbiamo il tempo per farlo e farlo bene. Sì, in questo momento in cui abbiamo effettivamente tempo, noi Titti e Flavia suggeriamo di prendere in mano quelle cose anche un po' noiose che non riusciamo a fare nei periodi normali della nostra vita in cui c'è il lavoro, ci sono i figli, c'è la spesa e tante altre cose. Quindi magari, non so, aprire l'armadietto delle medicine per vedere una per tutto una. Quello che c'è dentro, una per una, vedere se sono scadute. Quello assolutamente, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, quello lo metto io ho questa rubrica che si chiama Già che sto in casa e di fare proprio tutte quelle cose che uno si è dimenticato, che si ripromette sempre dicendo no, questa la voglio fare assolutamente. E assolutamente la maggior parte delle persone dice il riordino dell'armadietto delle medicine. Esatto, che è una cosa diciamo noiosa ma anche neanche tanto lunga, perché basta vedere le scadenze e buttarle, però noi consigliamo comunque di spostare tutto, di svuotarlo e di pulirlo all'interno, visto che comunque si appoggiano le medicine ed è difficile toglierle perché sono tante scatolette. Questa volta quando si prende in mano quell'armadietto bisogna anche pulirlo, quindi sei peggio del mio una fidanzato. Suggeriamo una miscela per pulirlo? Sì, dai, certo. dai, assolutamente sì. Allora, 200 ml di acqua, 200 ml di aceto bianco e 6 gocce di tea tree oil, che è un olio antisettico e antibatterico. Un panno in microfibra, si passa questo, non si risciacqua, si lascia asciugare e si rimettono dentro le medicine. Così pulito e disinfettato praticamente. Esatto, brava Laura. Esatto. Dunque, senti, in questi giorni che ci sono appunto tante persone a casa che vedete sì. Un aumento sui vostri canali, no? Come flusso? Sì, direi di sì, nel senso che ci chiedono in molti come igienizzare e disinfettare le superfici della casa. Siccome c'è questa incertezza sul virus che dura sulle superfici e tutto, allora ci chiedono sempre più spesso come poter essere un po' più tranquilli con le superfici della casa. Allora noi diciamo per prima cosa lasciate le scarpe all'esterno. Questa è una norma igienica che bisognerebbe avere adesso, ma e sempre. Sempre, perché ecco, ricordiamo, visto che abbiamo appena parlato di fake news, ricordiamo a tutti che le scarpe vanno lasciate fuori, esattamente come stai dicendo tu, che perché è buona educazione sempre e comunque, non sì. Per quella bufala del fatto che il virus rimane sull'asfalto per 9 giorni, che è chiaramente una bufala di qualcuno che si è inventato. Certo. Scusami. Assolutamente, no, hai fatto bene a precisare, infatti è proprio una buona norma igienica per non portarlo sporco in casa e ancora meglio adesso, visto che siamo in casa, di evitare di portare le scarpe che usiamo per uscire. Dunque, a proposito, ci chiedono secondo come me è una igienizzare. Buona norma anche per ritrovare le scarpe, perché io so che sono davanti alla porta, se le portassi in sì. giro dentro la casa non saprei mai dove trovarle. Questa è una buona idea, bravo. Esatto. Allora, a questo proposito vi possiamo dire che ci chiedono molto come igienizzare il pavimento e come disinfettarlo. Allora, se volete, vi do questo consiglio, questa soluzione di Titti e Flavia. Dai, prendo allora, nota. Per il pavimento si mette in un secchio 3 litri di acqua calda. L'acqua calda deve essere calda perché già di per sé sgrassa da sola. Si aggiungono 2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato, o se non avete quello da grattugiare, perché non è che si può andare a fare la spesa per comprare sapone di Marsiglia da grattugiare, si può usare anche quello liquido. Ma e soprattutto poi una tappa... con cosa si grattugia del sapone di Marsiglia? Con la grattugia del parmigiano. Ah sì? E dopo, sì. Dopo va igienizzata prima di usarla sul grana? Beh, va, almeno va lavata, è come se tu usassi il sapone liquido per i piatti, no? Quando pulisci, certo, certo, la grattugia. Quindi va, certo, soltanto lavata. Poi il sapone di Marsiglia è un sapone naturale, è un sapone oleoso, è un sapone che assolutamente non fa male. Comunque va lavata, naturalmente. Certo, certo. E poi aggiungiamo una tazza di aceto bianco. Passiamo lo straccio sul pavimento, insistendo su tutti gli angoli, magari in questo momento spostando quelle poltrone, le sedie, tutto quello che magari a volte che abbiamo fretta non facciamo, questa volta facciamolo veramente bene fino in fondo. Fatto questo, invece, per eliminare al massimo tutti i germi e i microbi, si passa un acqua, un mop, diciamo un panno, un mop, uno straccio, diluendo un bicchiere di candeggina in un litro d'acqua e naturalmente moltiplicandolo, 2 bicchieri in 2 litri, 3 bicchieri in 3 litri, perché ci sono delle soluzioni che servono proprio per disinfettare, e le cose per disinfettare sono praticamente 4: la candeggina, l'alcol 96%, che è l'alcol buon gusto, quello che serve per fare i liquori, tanto per intenderci, poi l'acqua ossigenata e un altro è l'alcol al 70%. Mm-hmm. Questi li teniamo come riferimento generale, diciamo. Mm-hmm. Esatto, per disinfettare proprio. Ok, benissimo. Allora, adesso che abbiamo anche la nostra ricetta, ci sono tantissime domande, io devo fare almeno un riferimento. Abbiamo detto le scarpe le lasciamo fuori casa e va bene. E qualcuno dice, vabbè, ma come facciamo col cane? Vabbè, il cane, non lo so, lo spazzoliamo? Che dici? Allora, lo spazzoliamo, ma Titti, che ha un cane, cosa fa? Gli pulisce le zampe sotto. Nel senso che è molto facile, prendi un pannetto o anche meglio ancora un carta casa, gli spruzzi su un po' di alcol e poi lo passi sotto le zampe e si disinfettano anche le zampe del cane. E quindi abbiamo risolto anche quello. Grazie Flavia, grazie mille. Soluzioni, grazie, di casa, ricordo, con Titti da Toma per tutte le vostre così curiosità e per rispondere anche alle domande, perché comunque sono arrivate diverse domande sulle soluzioni che ci ha tratteggiato Flavia Alfano. Adesso abbiamo GR24, abbiamo la viabilità subito dopo. Si può fare. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccolo qui il nostro primo concorrente di giornata per il quiz, è Emanuele da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Allora Emanuele, buongiorno. Si ricorda come funziona, no? Leggiamo 3 risposte possibili, ci deve dire quella che secondo lei è quella corretta. Ok? Va bene. Allora, Bojan Slat è un giovanissimo imprenditore americano impegnato nella battaglia per la salvaguardia dell'ambiente. Recentemente ha lanciato una nuova invenzione. Di cosa si tratta? Risposta numero 1. Un aeroplano che purifica e profuma l'aria mentre è in volo. Risposta numero 2. Una barca solare che pulisce i fiumi mangiando la plastica. Risposta numero 3. Una macchina in grado di clonare Greta Thunberg. La numero 2. La numero 2. Ed è giusto. L'applauso subito, così il nostro notaio non, grazie, perde tempo. Ci mancherebbe altro. Allora, è il ragazzo che ha inventato la macchina per pulire gli oceani, crea una barca solare che pulisce i fiumi. E insomma, è un giovanissimo imprenditore che a 19 anni ha già diversi successi alle sue spalle e adesso si è lanciato appunto in questa barca solare per ripulire i fiumi dalla plastica. Emanuele quindi vince e si aggiudica dei libri, ovviamente verrà contattato dal nostro centralino a partire da lunedì e vi metterete d'accordo per la spedizione. Grazie molto Emanuele, buona giornata allora. E a questo punto parliamo di acqua. Domani sarà la giornata mondiale dell'acqua, noi anticipiamo un pochino i tempi e cominciamo a parlare di acqua con Giordano Colarullo, che è direttore generale di Utilitalia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. L'acqua ovviamente è uno, no, è un bene essenziale per la nostra vita di cui un po' forse cominciamo a capire l'importanza in questi ultimi anni, quando abbiamo sempre più spesso stagioni siccitose che ci mettono un po' alla prova, no? Non trova Colarullo? Assolutamente, purtroppo i cambiamenti climatici di cui parlavate poc'anzi impattano tantissimo il nostro paese, che si trova in una fascia appunto particolarmente vulnerabile, e quindi abbiamo, come diceva lei, un'alternanza tra eventi estremi, cioè di acqua molto intensa ma che non va a riempire le falde facilmente, a fronte poi di periodi lunghi senza piogge. Avevamo avuto una forte siccità nel 2017, ora nel 2019, almeno per alcune regioni d'Italia, siamo di nuovo in una situazione pre-critica, direi, non è ancora critica naturalmente, dipende un po' da come andranno le prossime settimane in termini di piovosità. Certo, abbiamo avuto un inverno non particolarmente piovoso, abbiamo avuto un momento di crisi, poi abbiamo avuto delle piogge, qualcosa si è ripreso, chiaramente bisogna vedere come si proseguirà. Senta, però noi abbiamo parlato in questa puntata molto anche ovviamente del coronavirus e delle molte bufale che girano, tra queste anche quelle sulla trasmissione, no, con l'acqua, insomma, invece da questo punto di vista stiamo sereni. Assolutamente sì, ci terrei proprio a enfatizzarlo. È stato pubblicato pochi giorni fa uno studio da parte di, lo staff dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. L'acqua potabile è assolutamente sicura, anzi aiuta, come è stato detto più volte, a combattere la diffusione tramite lavaggi ripetuti delle mani. E la seconda elemento, che non ci sono evidenze rispetto anche alla sua diffusione nelle acque di depurazione fognaria. Quindi la popolazione italiana e i cittadini devono stare assolutamente sicuri, anzi coglierei anche l'occasione per ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questo comparto, in queste condizioni naturalmente difficili per tutti, continuano a svolgere il loro lavoro ogni giorno ad assicurare il servizio a tutti noi. Sì, tra l'altro ho letto... Beh, prego Carlo. No, volevo accodarmi nei ringraziamenti, perché giustamente ci ricordiamo sempre dei medici e degli infermieri che sono in prima linea, e ci mancherebbe altro, ma ci sono milioni di altri lavoratori che ci stanno garantendo i servizi, e tra l'altro il servizio dell'acqua non è poca cosa nel momento, anche nel momento in cui è più difficile andare a fare la spesa. Comunque ricordiamoci che grazie alla nostra rete idrica tutti noi possiamo bere acqua potabile senza uscire di casa, e questo mi sembra una bella cosa. Volevo chiedere, ultimamente c'è stato in alcune zone un aumento di emissione, credo, di cloro. Penso che anche questa cosa abbia contribuito alla fake news sulla questione che ma l'acqua sarà contagiosa, bisogna sterilizzarla, come giustamente ha ricordato lei, l'acqua non è assolutamente veicolo per il virus. Niente, volevo chiedere anche una cosa molto banale, dei consigli pratici per eliminare questo cloro, perché c'è chi dice basta scaldarla l'acqua, però io ho provato a scaldarla l'acqua che sapeva di cloro, poi adesso c'ho il pentolino che mi sa di cloro, allora volevo dei consigli. Ma guardi, l'immissione di cloro nelle reti è diciamo rutinario, non dipende dal virus, è un disinfettante, viene messo in quantità assolutamente salubri per la salute umana, naturalmente secondo la regola di legge, quindi non c'è da preoccuparsi. Capisco il fastidio che può provocare l'odore, francamente dovrebbe essere il suo stazionamento dovrebbe rapidamente diciamo fare evaporare l'odore stazionamento dell'acqua naturalmente. Però ripeto, al di là del fastidio, quello non è assolutamente indicazione di una problematicità con l'acqua, che rimane assolutamente sana per la salute di tutti, insomma. Senta, io ho letto in questi ultimi giorni gli appelli di, ad esempio, i gestori dei servizi ambientali per la necessità di mascherine per chi lavora nel settore. C'è un problema anche per voi? Io sono parte dello stesso appello perché rappresento anche le imprese, certo, le imprese di rifiuti, e anche a loro va naturalmente il nostro ringraziamento, perché stanno facendo un lavoro egregio e portare via i rifiuti sempre in queste condizioni. È vero che c'è una carenza di mascherine in tutti i comparti dei servizi essenziali, perché naturalmente il focus ad oggi era stato quello dei servizi sanitari, e quindi portare la mascherina naturalmente a chi è direttamente a contatto con il problema. È pur vero che nei nostri comparti ci sono alcune attività, non è che le mascherine siano necessarie, a distanza del metro si può mantenere in molte attività, per lo più poi peraltro lo staff è stato messo a lavorare da remoto, pertanto la grandissima maggioranza dei lavoratori sono da remoto. È chiaro che quelli operativi, appunto quelli che vanno magari a fare la riparazione al tubo piuttosto che manutentori, certo, in generale, certo. In questo senso naturalmente stiamo cercando di garantire ai nostri lavoratori la sicurezza. È chiaro che c'è una carenza a livello di sistema nazionale, quindi il punto di vista che abbiamo cercato di trasferire al governo, ma che sta ascoltando, l'ha detto, si è enfatizzato, è appunto la necessità per questi lavoratori, se volete, di arrivare subito dopo la parte sanitaria, perché comunque la loro salubrità e la loro difesa è essenziale per continuare a garantire questi servizi. Al momento abbiamo nel paese alcune situazioni di particolare criticità, speriamo appunto che l'import fra magari una produzione autoctona italiana riusciremo a far fronte a brevissimo a queste criticità. Noi tra poco parleremo con un grandissimo si può fare nel settore acque, che è quello dell'Abruzzo. Non voglio dare troppe anticipazioni, così ci ascoltano fino a quando ne parleremo nel dettaglio. Però al di là di questa grandissima opera, che quando sarà realizzata sarà un grandissimo successo e anche sicuramente un esempio per tanti, leggo però tra i vostri dati che con il tasso nazionale di rinnovo della rete e con il livello attuale di investimenti occorrerebbero 250 anni per sostituire l'intera rete. Cioè siamo un po' troppo lenti, direi. Non c'è dubbio che la rete parte da una situazione piuttosto carente, dovuta a decenni di sottoinvestimento. Qui parliamo del secolo scorso, gli anni 60, 70, eccetera. E il tasso adesso di rinnovo della rete è stato aumentato, soprattutto grazie ad un quadro di regole chiare dovute con l'introduzione della regolazione indipendente e con dei target che il regolatore sta dando a tutte le imprese in termini di riduzione delle perdite. Naturalmente bisogna tener conto di questo. Le opere infrastrutturali richiedono tempi lunghi sia in termini naturalmente di rimpiazzo, ma qui dobbiamo fare meglio e passare, raddoppiare circa il livello di investimenti a livello nazionale. La traiettoria è quella giusta, siamo passati da mezzo miliardo appunto in epoca pre-regolazione a circa 3 miliardi anni di investimenti adesso, ma dovremmo arrivare circa 5-6 miliardi a attendere. Ciò detto, bisogna tener conto che poi i risultati di un massiccio piano di investimenti, proprio per sua natura, avrà un rilascio lento, mi lasci passare il termine, impiegheremo un po' di tempo a vedere i risultati di riduzione. Quindi la cosa importante in questo caso è continuare sul percorso virtuoso iniziato una decina di anni fa con l'introduzione della regolazione indipendente, lo smesso delle regole, l'aumento degli investimenti, cercare di invertire la rotta e così diciamo stabilizzare le perdite e cominciare poi ad aggredirle. Se oggi siamo intorno al 42% a livello nazionale, con punte del 60% e più in alcune parti del paese, ahimè il sud tende ad essere il fanalino di coda, forse proprio da lì dobbiamo concentrarci maggiormente e cercare di dare una gestione di carattere industriale che possa far fronte alle grandi sfide. A questo aggiungo e chiudo che la sfida diventa duplice, perché proprio per come avevamo aperto sui cambiamenti climatici, ora non è solo le perdite, ma dobbiamo garantire una diciamo rete di sicurezza. Questo che cosa comporta? Comporta che in pratica dovremo mettere investire in invasi che possano garantire quindi la raccolta delle piogge intense di cui si parlava prima, e possano quindi garantire durante il periodo dell'anno l'acqua anche laddove le piogge siano troppo intense in una fase e scarse in un'altra. Esattamente. Grazie molte, buon proseguimento, buona giornata e buona giornata mondiale dell'acqua domani a Giordano Colarullo, che è il direttore generale di Utilitalia. Abbiamo una piccola pausa, torniamo subito dopo, Carlo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E c'è un altro concorrente per il nostro quiz che è Gavino da Milano. Buongiorno. Buongiorno signora. Allora, buongiorno a lei. Sì. Allora, guarda, viene proprio a puntino questo quiz che le poniamo. Allora. Sì. La quarantena forzata può avere degli effetti imprevedibili. Per chi sente la mancanza della vita quotidiana, un gruppo di appassionati ha realizzato una applicazione sorprendente. Quale? Risposta numero 1. Hanno creato un simulatore virtuale della metro B di Roma. Risposta numero 2. Hanno messo in commercio delle fialette contenenti aria inquinata. Risposta numero 3, hanno realizzato una playlist con suoni di traffico e clacson. Che dice? Quindi per ovviare al senso di mancanza della vita quotidiana, che cosa è stato creato? Un simulatore della metropolitana, delle fialette con l'aria inquinata oppure una playlist con i rumori di traffico? La terza. Quindi lei dice una playlist con suoni di traffico e clacson, giusto? Sì. Sentiamo. Ci saremmo aspettati un suono di clacson per dire no, ma in realtà perché la cosa che è stata creata è il simulatore virtuale della metropolitana di Roma. E si vede che ci avevano proprio l'assenza della metro, cosa ti devo dire? No, sono scongiurato, sento pure poco qui. Ah sì, ci sente poco, no, ci dispiace. Allora Gavino, grazie della telefonata, purtroppo non era quella la risposta corretta, però continui ad ascoltarci. Ai tanti che ci chiedono perché non riescono a sentirci questa mattina online o sulla app, non so dare una risposta, l'abbiamo a nostra volta segnalato e speriamo che il problema venga risolto al più presto. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame. E tanti anche che ci scrivono dicendo che insomma i nababbi di Radio 24 si vede che hanno la villa perché riescono a lasciare le scarpe fuori di casa. Beh, dico no, non abbiamo la villa, basta magari lasciarle all'ingresso dentro la casa propria, trovateli uno scomparto, insomma non è che proprio vanno lasciati sul pianerottolo, anzi anche dove abito io se lo lasciassi sul pianerottolo altri non sarebbero felicissimi. Poi dice magari li rubano, no, magari non le rubano, però non è uno spettacolo consentito, ecco. non serve avere una villa, basta avere una porta di casa per lasciarli fuori dalla porta di casa comunque. Sì, però se non le vogliamo lasciare sul pianerottolo o non le possiamo lasciare sul pianerottolo, basta lasciarle all'ingresso, insomma, ecco, quello più o meno ce l'abbiamo tutti, no? Quindi direi di sì. Allora, e ovviamente i farmaci scaduti, la nostra ospite non ha consigliato a nessuno di buttarli nell'indifferenziato, ha detto semplicemente di toglierli dall'armadietto, metteteli da parte, si consegnano alle farmacie. Certo. E tra l'altro è abbastanza semplice, perché nel momento in cui uno sta pulendo l'armadietto delle medicine, tutto ciò che trova dentro sono medicine, quindi va tutto in farmacia, ovviamente. Precisamente. E poi un'altra, invece, tornando al tema dell'acqua, una così vorrei così ricordarvi dei dati che sono usciti ieri, sono stati elaborati da Enea. In questi giorni in cui siamo a casa, i consumi domestici aumentano tra il 27 e il 53% i consumi di acqua. Perché facciamo le pulizie, perché abbiamo più l'ansia della disinfezione, per mille motivi, però insomma facciamoci attenzione, non sprechiamo l'acqua in questi giorni solo perché stiamo a casa, riflettiamo su quello che dobbiamo realmente lavare e quello che invece può aspettare il carico magari della lavatrice del giorno successivo. Non è necessario farla tutti i giorni, ma adesso è il momento di introdurvi al nostro prossimo ospite, per parlare di questa grande realizzazione che si sta compiendo all'Aquila. Dopo il terremoto ovviamente è stato necessario ricostruire molta impiantistica, e lo si sta cercando di fare in maniera smart, per trasformare l'Aquila appunto in una smart city. Il nostro ospite è Fabrizio Airaldi, presidente di Gran Sasso Acque SPA. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'occasione. Allora, un grande tunnel sotterraneo in cui far passare tutto, non solo appunto gli impianti per portare l'acqua, ma anche tanti altri servizi ai cittadini, giusto? Sì, beh, la realizzazione di questa infrastruttura sotterranea, diciamo, è stata un'illuminazione avuto in fase di ricostruzione rispetto a un sistema che era collassato in conseguenza del terremoto. Si è pensato però di farlo in maniera smart, seguendo le logiche di un'economia circolare, e quindi si è pensato di far passare i servizi in pressione, cioè la rete di distribuzione idrica, i servizi di collettamento in generale, che sono la fogna, le acque nere, e la rete fognaria delle acque bianche, che vengono divise, questo è un aspetto importante, magari dopo ci soffermiamo un attimo, e i servizi cablati, cioè la rete telefonica, la rete di distribuzione elettrica, la media tensione, quindi la rete di illuminazione pubblica e le fibre in generale. Diciamo, questa concentrazione di infrastrutture di tutte le utilities in un unico posto evidentemente comporta e comporterà non solo un efficientamento di tutti i servizi, ma anche un intervento puntuale lì dove si dovesse procedere sia a un upgrade delle infrastrutture, si pensi al passaggio da un tipo di fibra a un altro, che vedrà esclusivamente lo sfilaggio della fibra per la sostituzione del nuovo senza fare scavi, ma anche un intervento puntuale in caso di rotture, si pensi alle nostre condotte, che quindi non si dovrà più interrompere la strada. Che sarà bellissimo non vedere questi cantieri, no, sia pur temporanei, che comunque... Beh, no. Sì, sarà bellissimo. E forse anche più facile per voi come intervento. Esatto, ma è anche più comodo per l'utenza, innanzitutto perché ci darà la possibilità di monitorare con fibra ottica il momento preciso, il punto preciso dove avverrà la rottura, e quindi ci permetterà, tramite delle elettrovalvole gestite in remoto, di interrompere l'erogazione in quel punto e quindi preservare la risorsa, ma soprattutto ci permetterà un intervento puntuale con gli operai che scenderanno evidentemente in questo tunnel, e anche i costi dell'intervento saranno assolutamente irrisori rispetto all'intervento stesso. Ma mi scusi, volevo fare una domanda, se lo spiega a me, che sono lo stupido dei due. No. Nel senso, no, lo dico seriamente, perché non mi è chiaro. L'idea è quella di avere, cioè, un unico tunnel, perché mentre adesso tutte le utenze, quindi da una parte il telefono, da una parte l'acqua, da una parte l'elettricità, passano per tubi singoli, che immagino perché nel tempo sono stati creati, la vostra idea è di avere un unico tunnel sotto tutta la città che vada a toccare tutte le case e che porti tutte queste cose, è così? Esattamente così. Allora, noi diciamo interveniamo in un centro storico del 1200, quindi lei può immaginare come durante gli anni ovviamente ogni singolo utilities ha steso la propria infrastruttura. Parliamo delle telecomunicazioni, certo, parliamo del gas e quant'altro. Allora, l'idea principale era quella di levare per un decoro cittadino urbano i cavi dai palazzi storici, e quindi quale cosa migliore era quella di concentrare in un unico comparto tutte queste singole infrastrutture. È ovvio che il tunnel calpestabile interessa delle porzioni di città per cui c'è stato lo spazio per scavarlo. Ma infatti immaginavo questo, cioè immaginavo la difficoltà anche di incontrare reperti archeologici, giustamente. Beh, sì, infatti diciamo, questo mi perdoni che l'ho interrotta, sì. Questo è stato diciamo il motivo per cui i lavori si sono prolungati un po' più di tempo. Si figuri che nella sola asse centrale, nel primo lotto, noi abbiamo avuto 180 rinvenimenti archeologici, con tutte evidentemente le trafile del caso per la preservazione dei manufatti rinvenuti, la più gran parte dei quali non poteva essere evidentemente rimosso e quindi doveva essere messo in sicurezza e fatte delle varianti alla struttura. Però al di là di questi inconvenienti che in un paese come il nostro, che è denso di storia, sono frequenti, diciamo l'idea interessante era stata quella, appunto, come ha detto lei, di creare un tunnel percorribile per le vie più grandi, che permettesse un accesso singolo ad ogni civico. Quindi noi su ogni palazzo abbiamo un'entrata nel tunnel con tutte le utilities che ci arrivano, e soprattutto concentrare anche dal punto di vista delle infrastrutture, quindi delle infrastrutture presenti nel sottosuolo, tutte in una sola porzione. Quindi sappiamo adesso, perché abbiamo rimappato precisamente la posizione di ogni singola infrastruttura, possiamo intervenire con una precisione chirurgica. E questo sicuramente è importante, dovrà essere super, come dire, super controllato poi questo tunnel una volta finito, nel senso che poi ha l'accesso a qualunque cosa da lì, chiunque. Beh sì, il tunnel prevede anche un impianto di videosorveglianza e un accesso dedicato per gli operatori di ogni singolo servizio e quindi di ogni singolo utilities che vi devono accedere, che avranno un badge e potranno essere autorizzati solo ed esclusivamente per l'intervento che dovranno effettuare in galleria. Quindi insomma ci sono una serie di presidi di sicurezza, perché come lei ben ha intuito, insomma, concentrare in un solo posto diciamo la gestione della città prevede dei livelli di sicurezza importanti. Senta, ma immagino che questo in qualche modo sia anche un progetto pilota, cioè immagino che il futuro vada in questa direzione, mi immagino che tante altre città stiano guardando a questo esperimento con curiosità, perché forse soprattutto città che sotto hanno anche meno storia e meno archeologia, che quindi possono fare un tunnel più rapidamente, immagino che sia una soluzione per tutti per il futuro. Guardi, io le devo dire, sarebbe auspicabile. La verità vera è che diciamo la nostra città, per una serie di coincidenze anche insomma drammatiche, si è trovata ad avere la possibilità di un finanziamento importante da parte del CIPE, e in fase di offerta migliorativa è stata proposta la realizzazione di questo tunnel. Quindi in realtà noi in Italia siamo gli unici, in Europa c'è qualche esempio di cavi, di cavidotto di servizio calpestabile, ma non concepito per una città. Credo in America ci sia una sperimentazione simile. Sì, sarebbe auspicabile, tornando alla sua domanda, sarebbe auspicabile, certo, anche perché ci ha permesso per la prima volta di mettere mano alle infrastrutture nel sottosuolo che non sono stato per tanto tempo oggetto di interesse da parte di nessuno. Insomma, noi la più gran parte delle perdite ce l'abbiamo nell'infrastruttura sotterranea. Dunque, quindi c'è una... Sì, prego, concluda. No. Che ho visto ascoltatore che mette il dito nella piaga italiana tipica dell'accordo tra i gestori dei vari servizi, dice sono d'accordo su questo tunnel. In realtà il tunnel è quello, o si passa di lì o si passa di lì, mi sembra di capire, in futuro. In poche parole sì, perché comunque il comune non darà più l'autorizzazione evidentemente a stendere cavi o fili sia sulle facciate dei palazzi, ma neanche sugli appositi supporti, e quindi in realtà a monte delle realizzazioni di questo tunnel c'è un accordo con i gestori che, nolente o volente, vi devo dire la verità, non è molto facile interloquire con i grandi gestori, però dovranno comunque adattarsi a questa scelta. Cioè, non è che potranno prendere dei cavi e tirarli loro, quindi insomma. Prego? Non potranno prendere dei cavi e tirarli loro da un palazzo all'altro, no? Quindi si passa da lì perché è così deciso. Sì, questo purtroppo per loro, ma per fortuna per noi, è inevitabile. Io mi porto a casa anche la bellissima espressione, non voglio mai più chiamarlo tunnel, ma lo chiamerò sempre cavidotto di servizio calpestabile, che lo trovo veramente straordinario. Vabbè, se vuoi farti un cavidotto anche tu a casa. È bello, il cavidotto di servizio calpestabile. Oddio, tecnicamente sarebbe una galleria polifunzionale. Tecnicamente, proprio da progetto, però chissà si può farci ginnastica in futuro nella galleria polifunzionale. Ah, dici che anche per i runner, se possono passare tutti, direi che possono passare una alla anche volta. Oddio, non è comodissimo, però. Però ci potrebbe essere anche un percorso a ostacoli, perché poi ci saranno ovviamente delle cose da schivare, da non toccare, così via. Si potrebbe organizzare, insomma, per il futuro. Diciamo, la struttura è composta da una parte evidentemente calpestabile e poi da una serie di pensiline dove vengono sopra, diciamo, stese le varie utilities. Invece le nostre reti idriche ovviamente sono fatte con dei tubi che sono adagiati sulla parte bassa. È importante dire che all'interno di questo smart tunnel ovviamente non passa il gas per motivi di sicurezza, perché non sarebbe possibile garantirla. Certamente, certamente. Grazie, allora, dai, ci sentiamo. Prego. Per l'inaugurazione, speriamo presto. Ben volentieri. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Un'altra concorrente per il nostro quiz è Luisella, ci ha chiamato dalla provincia di Asti. Buongiorno. Buongiorno e buona primavera. Grazie, grazie. Buongiorno. Che bella voce squillante, Luisella. Pronta per la primavera. Sì. Allora, le leggo subito il testo del nostro quiz, riguarda... Facilino, perché io sono una nonna. No. Ma non si preoccupi, ma le nonne sono più intelligenti di noi, quindi esatto. Ci mancherebbe altro. Sono più sagge. Grazie. Usiamo la saggezza, glielo dico. Peter Dow è un milionario britannico che recentemente ha annunciato di volersi mettere a disposizione dei suoi concittadini. In che modo? Risposta numero 1, ha aperto i cancelli della sua fattoria a 1000 persone in fuga dal coronavirus. Risposta numero 2, ha indossato costume, mantello e maschera e ha iniziato a combattere il crimine per strada. Risposta numero 3, ha investito 18 milioni di dollari per rendere gratuito YouPorn per tutti gli inglesi. Insomma, è un milionario britannico che ha una grossa villa e che ha annunciato di volersi mettere a disposizione dei concittadini. Ha aperto la villa, la sua fattoria a 1000 persone, oppure si è messo un costume, un mantello e una maschera per combattere come Batman, oppure ha investito 18 Ok, oppure 18 milioni per rendere gratuito la pornografia? No, non credo. No, esatto. Io sono penso per la prima, che sia quella della beneficenza a 1000 persone. Sentiamo così. Esatto. Signora, ha indovinato. Ha visto la saggezza, ha visto la saggezza. Vi ringrazio immensamente e guardi, spero per tutta l'umanità che questi giorni, anche se sono solari di sole, ma bui dentro di noi, risplendano immensamente. Grazie signora, grazie signora Alisella, anche per lei. Fare. Anche giusto, per lei. I vostri libri, così mi servono. Come i no? vostri libri a combattere la noia in casa. Lunedì la chiamano senz'altro e vi mettete d'accordo per la spedizione molto dei libri. Gentili e buona primavera a tutti e pensiamo positivo. Give me five. All right. Give me five. All right. Pensiamo positivo anche attraverso le notizie della nostra classifica, le migliori notizie, buone notizie della settimana. Cominciamo, Carlo, pronto? Certo che sì. Allora, al numero 5, coronavirus, Grey's Anatomy dona guanti e mascherine. Il coronavirus ha infatti bloccato molte produzioni televisive e cinematografiche negli States, tra queste anche Grey's Anatomy, che ha dichiarato uno stop di 2 settimane alle riprese. Ma la serie televisiva di Shonda Rhimes ha deciso di fare un passo oltre e donare gli stock di guanti e camici ospedalieri che erano stati accumulati per le riprese. Tutto materiale sanitario certificato, siano lodate le esigenze di realismo, che arriverà dai set tanto di Grey's Anatomy, appunto camici e guanti, che dallo spin-off Station 19, che ha donato mascherine. Al quarto posto la Biblioteca Digitale Mondiale dell'UNESCO, che contiene oltre 19.000 documenti, è accessibile a tutti e gratuitamente. Ovviamente stiamo parlando di questa emergenza coronavirus, per cui quasi 20.000 contenuti di 193 paesi differenti, datati dall'8.000 avanti Cristo a oggi, per tutto il periodo di questa emergenza a livello globale avranno la possibilità di essere consultati gratuitamente sul sito della biblioteca. E che cos'è? Lo dico semplicemente per ricordarcelo, la World Digital Library, e cosa si trova lì dentro. L'UNESCO e 32 istituzioni partner lanciarono la biblioteca digitale ben 11 anni fa, un sito web che contiene materiali culturali unici provenienti da biblioteche e archivi di tutto il mondo, allo scopo di promuovere il libero flusso di tutte le forme di conoscenza, educazione, scienza, cultura e comunicazione. E al terzo posto abbiamo messo 2 notizie simili perché ci sembrava giusto, non potevamo dare la preferenza l'una all'altra. A Milano 40 taxi cooperativi sono a disposizione degli anziani, a Roma parte la consegna in taxi della spesa e di piccole merci. Per quel che riguarda Milano, viene da un'idea di Lega Coop Lombardia il servizio Una Corsa per i Nostri Anziani, proposto dalle cooperative Taxi Blu e Audio Radio Tassi 8585, con il supporto del Comune di Milano, assessorato alle politiche sociali e abitative. Ci sono 40 taxi a disposizione degli anziani per agevolarli negli spostamenti improrogabili in questo momento di difficoltà, mentre a Roma è WeTaxi che lancia il servizio delivery, rinunciando alla FIA, alla tassa. La nuova funzione sarà estesa poi in altre città, le auto saranno di volta in volta sanificate, questo per appunto aiutare nelle consegne che uno può aver necessità di fare, magari anche si fa la spesa per un anziano, per una persona disabile, per un non vedente, bene, li si può far recapitare grazie a questo servizio. E al secondo posto io ci metto la casa, da The Best Rent, alloggi gratuiti a Milano per medici e infermieri. La Best Rent è società italiana che opera in ambito immobiliare, offrendo in locazione appartamenti attraverso soluzioni di breve o medio lungo periodo, lancia questa iniziativa per mettere a disposizione appartamenti su Milano a titolo gratuito appunto per medici e infermieri. Sembra un problema secondario, ma non lo è, perché faccio un esempio: alcuni medici e infermieri magari hanno persone che sono in grado di ospitarle a Milano, ma in questo momento preferiscono tutelarli e usufruire altri alloggi per non contagiarli. E invece altri medici che magari vivono a Milano, hanno casa a Milano, però vorrebbero alloggiare da soli per di nuovo tutelare le persone con cui vivono, soprattutto se sono anziane, visto che loro lavorano in una zona a rischio, gli ospedali. E al primo posto abbiamo messo la scelta di Torino, dove l'antirazzismo diventa un bene comune come l'acqua e i parchi, perché c'è un momento, quello attuale di coronavirus, ma ci sarà anche Una vita dopo e per sempre, la Giunta Appendino ha approvato una delibera innovativa che equipara, prima in Italia, all'acqua e ai parchi, la lotta contro le discriminazioni e il patrimonio acquisito negli anni in questo campo. Una decisione che arriva in un momento dove proprio a Torino e provincia si sono registrati diversi attacchi razzisti legati alla diffusione del nuovo coronavirus, in particolare contro persone di origine cinese o asiatica, tacciati di essere untori. La delibera, approvata in vista della giornata di oggi, che è la giornata mondiale per l'eliminazione della discriminazione razzista, contiene un piano d'azione cittadino contro i crimini d'odio razzisti e ha lanciato una chiamata pubblica per un patto di collaborazione sull'antirazzismo. E qui concludiamo la nostra rassegna delle principali buone notizie della settimana. E allora, Carlo, in conclusione io spero di farti una bella sorpresa con il prossimo collegamento, perché in chiusura abbiamo voluto richiamare un ospite che la settimana scorsa ha riscosso tantissimo successo e che sappiamo tanti ascoltatori hanno chiamato nel corso della settimana. Lui è Gianni Trezzi, preside del liceo Parini di Seregno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Le volevamo buongiorno. Chiedere una bella poesia per chiudere la trasmissione di oggi, aprire bene la giornata. Sta andando splendidamente l'iniziativa, stanno chiamando proprio in tanti. In particolare, se mi date qualche secondo, c'è una vostra ascoltatrice, si chiama Nuccia, la signora Nuccia di Bergamo, una signora che vive da sola e mi ha chiamato tutti i giorni. Quindi tutti i giorni io leggo una poesia per la signora Nuccia, penso proprio che stia ascoltando. Ce l'ha una poesia da 30 secondi e ci lasciamo ma con certo, quella? 30, qui. Bada. Apriamo al volo, vediamo che cosa capita. Ah, ci capita una delle più belle di Catullo. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inaciditi, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci ancora 100, dammene altri 1000 ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto, ne imbroglieremo il conto, affinché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande. Gianni Trezzi, grazie. Grazie mille. Buona giornata, auguri a tutti. Carlo, a domani. A domani.